JJ Omolloy, con parrucca grigia e toga da avvocato, con accenti di addolorata protesta. Non è questa la sede per indecenti leggerezze alle spalle di un infelice che ha errato, fuorviato da Bacco. Non siamo nell'arena degli orsi, né a una mascherata studentesca, né questa è una parodia della giustizia. Il mio cliente è un infante. Un povero immigrato straniero che ha cominciato da zero come clandestino e ora cerca onestamente di guadagnarsi l'esistenza. Il preteso reato fu dovuto a un'aberrazione ereditaria momentanea, provocata da allucinazione. Le familiarità colpevoli del genere di quella incriminata a torto, nel caso specifico, essendo del tutto lecite nel paese natale del mio cliente, la terra dei faraoni. Prima facie, io sostengo che non vi fu nessun tentativo di commercio carnale. Non vi fu intimità. E il reato contestato dalla Driscoll, cioè il fatto che sarebbe stata sollecitata la sua virtù, non ebbe a ripetersi. Mi permettano di insistere sulla questione dell'atavismo. Ci sono stati casi di naufragio e di sonnambulismo nella famiglia del mio cliente. Se l'imputato potesse parlare, potrebbe svelare una storia tra le più strane fra quante siano mai state racchiuse tra le copertine di un libro. Egli stesso, signor Presidente, è un relitto umano, affetto dalla tubercolosi dei calzolai. La sua scusa sta nel fatto di essere di origine mongolica e quindi irresponsabile delle sue azioni. Non è sempre presente a se stesso, in effetti. Blum, scalzo, con petto sporgente. In giacchetta e pantaloni da marinaio indiano, alluci in dentro a mo' di scusa, apre gli occhietti di talpa e si guarda intorno abbacinato, passandosi lentamente una mano sulla fronte. Poi si tira su la cintura, come fanno i marinai, e con una spallata di deferenza alla orientale saluta la corte, alzando il pollice al cielo. Lui fale molto buonanotte. Comincia a canticchiare semplicemente. Lì, povero bambino, porta a zampetto tutte le sele, l'ha pagato due scelli, lo subissano di fischi. J.J. Omolloy, con calore, alla folla. Questa è una lotta troppo impari. Per gli dèi inferi, non tollererò che un mio cliente sia imbavagliato e punzecchiato in questo modo da una torma di mastini e di iene beffarde. Il codice mosaico ha sostituito la legge della giungla. Lo dico e lo ripeto, senza neppur pensare di ostacolare il corso della giustizia, che l'imputato non fu complice e che la querelante non è stata molestata. La giovane fu trattata dal convenuto come fosse stata sua figlia. Blum prende la mano di JJ Omolloy e se la porta alle labbra. Invocherò testimoni di difesa per provare irrefutabilmente che la mano nascosta ha ricominciato il vecchio gioco. Se avete qualche dubbio, date pure addosso a Blum. Il mio cliente, uomo timidissimo per natura, sarebbe l'ultima persona al mondo a far qualcosa di men che onesto, cui la modestia offesa potesse obiettare, o a tirar la prima pietra addosso a una ragazza che fu traviata allorché un farabutto, responsabile del suo stato, abusò di lei a suo piacimento. Egli vuol rigar diritto. Io lo considero l'uomo più immacolato che ci sia. Ora è in bassa fortuna, a cagione delle ipoteche accese sulla sua estesa proprietà ad Agendat Netaim, nella lontana Asia Minore, della quale vi saranno presentate ora alcune diapositive. A Blum. Le consiglio di fare un'offerta ragionevole. Blum. Un penny a sterlina. Viene proiettato sul muro il miraggio del lago di Kinneret, con bestiame sfucato, brucante in un alone argenteo. Moses Dlugacz, albino dagli occhi di furetto, con una tuta azzurra, si alza in piedi nella galleria, tenendo in una mano un cedro arancio e nell'altra un rognone di maiale. Dlugacz, con voce roca. Bleibe Treu Strasse, Berlin, W13. JJ Omolloy sale su un plinto basso e rialza solennemente un risvolto della giacca. La faccia gli si allunga, Diventa pallida e barbuta, con gli occhi infossati, le chiazze di tubercolosi e gli zigomi da tisico di John F. Taylor. Si preme il fazzoletto sulla bocca e scruta attentamente la marea galoppante del sangue color di rosa. J.J. O'Molloy, quasi senza voce. «Mi scusino, sono afflitto da una forte infreddatura. Mi sono alzato ora da letto. Poche parole ben scelte». Assume la testa da uccello, i baffi volpini e l'eloquenza proboscidale di Seymour Bush. «Quando il libro degli angeli verrà a essere aperto, se mai cosa spiritualmente trasfigurata o trasfigurante dal seno pensoso intrapresa meriti di vivere, io vi dico allora di accordare al prigioniero che vi è davanti il sacro beneficio del dubbio». Un foglio con qualcosa scritto sopra viene presentato alla corte. Bloom, in abito da cerimonia. «Posso fornire le migliori referenze. I signori Callan, Coleman, Mr. Winston Healy, giudice di pace, il mio vecchio padrone Joe Cuff, Mr. V.B. Dillon, ex sindaco di Dublino. Ho frequentato il circolo incantato delle più alte regine della società di Dublino, negligentemente. Ero proprio oggi a chiacchierare alla loggia dei viceré coi miei vecchi amici Sir Robert e Lady Ball, l'astronomo del re, alla levée. Sir Bob, dicevo. Mrs. Yalverton Barry, in un vestito da ballo color opale, con la scollatura profonda, e guanti avorio lunghi fino al gomito, con una cappa color mattone imbottita e guarnita di zibellino, un pettine di brillanti e una penna di struzzo tra i capelli. Lo arresti, vigile! Mi ha scritto una lettera anonima con grafia goffamente contraffatta quando mio marito era nel distretto settentrionale del Tipperary per la sessione di Munster, firmata James Lovebirch. Diceva di aver visto dalla piccionaia le mie due sfere impareggiabili quando sedevo in un palco del Teatro Regio a una rappresentazione di gala di La Cigale. Gli avevo messo il fuoco addosso, diceva. Mi faceva delle proposte sconvenienti perché mi comportassi come non dovevo alle 4:30 pomeridiane del giovedì seguente, ora di dancing. Offriva di mandarmi per posta un libro di amena lettura di Monsieur Paul de Kock, intitolato «La ragazza con tre busti». Mrs. Bellingham, con un cappello a calotta e un mantello di falsa foca, chiuso fino al naso, scende dalla sua carrozza e scruta attraverso l'occhialetto di tartaruga che estrae dal gran manicotto di opossum. «Anche a me! Sì, credo che sia la stessa deplorevole persona. Infatti mi chiuse la portiera davanti alla casa di Sir Thornley Stoker in un giorno di nevischio durante il periodo freddo del febbraio del 93, quando anche il tubo di scarico e le valvole del serbatoio del bagno erano otturati per il gelo. In seguito mi mandò in una busta un fiore di Edelweiss, colto sulle più alte vette in onor mio, diceva. Lo feci esaminare da un esperto botanico e ne ottenni l'assicurazione che era un fior di patata, di specie casalinga, sottratto a una serra della fattoria Modello. Mrs. Yelverton Barry. Si vergogni! Una turba di ciane e straccioni avanza mareggiando. Le sgualdrine e gli straccioni, urlando. «Al ladro! Urrà! Barba blu! Tre applausi per Abramuccio!» Seconda guardia. Tira fuori le manette. «Ecco i braccialetti!» Mrs. Bellingham. Mi si è rivolto con svariate calligrafie e complimenti stomachevoli, quali «Venere in pelliccia», e asseriva di avere una profonda compassione per il mio cocchiere Palmer, assiderato dal freddo, e al tempo stesso si dichiarava invidioso del suo berrettone, della sua pelliccia di pecora pelosa e del suo fortunato starmi vicino, in piedi, dietro alla sedia, indossando la mia livrea con le armi dei Bellingham, testa di cerbiatto tra punta d'oro in campo nero. Faceva elogi quasi stravaganti delle mie estremità inferiori, dei miei polpacci sodi in calze di seta tese fino al limite, e innalzava infiammati peana agli altri miei tesori nascosti, trapizi impagabili che, diceva, egli poteva raffigurarsi, Mi supplicava, affermando che era sua missione nella vita quella di supplicarmi, di profanare il talamo nuziale, di commettere adulterio alla prima occasione che si presentasse. L'onorevole Mrs. Mervyn Talboys, in costume da amazzone, cappello duro, stivali con speroni, giubbetto vermiglio, guanti alla moschettiera color avana con bacchette ricamate, coda del vestito sul braccio e frustino con cui si batte costantemente gli stivali. Anche a me? Perché mi aveva visto al campo di polo di Phoenix Park alla partita della nazionale irlandese contro il resto dell'Irlanda. I miei occhi, lo so, brillavano di luce divina vedendo il capitano battitore Danny dei Dragoni di Innis vincere la mezza partita finale sul suo puledro favorito Centaur. Questo Don Giovanni plebeo mi osservava da dietro una vettura da nolo e mi mandò poi in doppia busta una fotografia oscena, come se ne vedono quando fa buio sui boulevard parigini. Un vero e proprio insulto per una signora. Ce l'ho ancora. Rappresenta una signorita parzialmente nuda, esile e graziosa, sua moglie, come mi assicurava solennemente, ripresa da lui dal vivo. In illecito commercio carnale con un torero muscoloso, chiaramente un teppista. Mi supplicava di agire in pari modo, di comportarmi male, di peccare con gli ufficiali della guarnigione. Mi implorava di insozzare la sua lettera in modo innominabile, di punirlo come ben si meritava, di saltargli addosso e cavalcarlo, di flagellarlo violentemente con uno scudiscio. Mrs. Bellingham, anche a me. Mrs. Yelverton Barry, anche a me! Diverse rispettabilissime signore di Dublino mostrano lettere sconvenienti ricevute da Bloom. L'onorevole Mrs. Mervyn Talboys fa risuonare gli speroni in preda a un accesso subitaneo di furia subitanea. Lo farò, quanto è vero Dio! Sferzerò questo cagnaccio codardo finché riesco a stargli sopra. Lo scorticherò vivo. Bloom, chiudendo gli occhi, si raggomitola nell'attesa. Qui si contorce. Ancora! Ansima accucciandosi. Amo il pericolo. L'onorevole Mrs. Mervyn Talboys. Ah, sì, davvero! Ora lo servo io. Gliela farò ballare io la furlana, non si preoccupi. Mrs. Bellingham, conciagli le brache a questo villan rifatto, con le stelle e le strisce sopra. Mrs. Yelverton Barry, turpe, non ha nessuna scusa, un uomo sposato. Bloom, tutta questa gente, io pensavo solo a qualche sculaccione, una calda sensazione di prurito, senza effusione. Vergate sapienti come stimolante della circolazione. L'onorevole Mrs. Mervyn Talboys ride di scherno. Davvero, bel signorino! Ebbene, per il Dio vivente, avrà ora la più gran sorpresa della sua vita, creda a me, la scuoiatura più spietata che mai si sia sognato. Lei ha risvegliato a colpi di frusta la tigre furibonda assopita in me. Mrs. Bellingham scuote con aria vendicativa il manicotto e l'occhialetto. Fagliele bruciare, cara Anna, mettigli il pepe di dietro, legna questo bastardo finché non ha la lingua di fuori, il gatto a nove code, castralo, vivisezionalo. Bloom, rabbrividendo, raggrinzito, congiunge le mani con contegno da cane bastonato. Che freddo, che brividi, fu la sua ambrosiale bellezza. Dimentichi, perdoni, chi smette? Mi lasci andare per questa volta? Offre l'altra guancia. Mrs. Yelverton Barry, severamente. Non ci pensi neppure, Mrs. Talboys. Bisognerebbe dargli una bella strigliata. L'onorevole Mrs. Mervyn Talboys, sbottonandosi un guanto violentemente. Non me lo sogno neanche, brutto porco che non è altro e che è sempre stato fin da quando l'hanno slattato. Osare di rivolgersi a me. Lo frusterò sulla pubblica strada fino a coprirlo di lividi. Infilerò in lui gli speroni fino alla molletta. È un becco notorio. Fa fischiare selvaggiamente per aria il frustino. Tirategli giù i pantaloni senza perder tempo. Qua, signor mio, presto, Pronto? Bloom, tremando, sta per obbedire. Ha mai fatto tanto caldo? Davy Stevens, riccioluto, passa con uno sciame di strilloni scalzi. Davy Stevens, messaggero del Sacro Cuore, Evening Telegraph, col supplemento del giorno di San Patrizio, i nuovi indirizzi di tutti i becchi di Dublino. Il reverendissimo canonico Aelon in pianeta dorata eleva e presenta all'adorazione un orologio da tavolo di marmo. Davanti a lui, padre Conroy e il reverendo John Hughes, SJ, si inchinano fino a terra. L'orologio, spalancando la porticina. Cucù, cucù, cucù. Si sentono tintinnare gli anelli d'ottone di un letto. Gli anelli. Din-dan, din-den-dan, din-dan. Un pannello di nebbia scivola rapidamente all'indietro, rivelando rapidamente nel banco dei giurati i volti di Martin Cunningham, capo della giuria col tubino, Jack Power, Simon Dedalus, Tom Kernan, Ned Lambert, John Henry Menton, Miles Crawford, Lenehan, Paddy Leonard, Nosey Flynn, McCoy e il volto senza lineamenti di un innominato. L'innominato, cavalcare senza sella, peso a seconda dell'età, per Diana, se l'era organizzata bene. I giurati, tutte le teste voltate verso l'innominato. Davvero? L'innominato ringhia. A buco ritto, 100 scellini contro 5. I giurati, tutte le teste abbassate affermativamente. La maggior parte di noi era di questo parere. Prima guardia. È già schedato. Ancora una volta una treccia tagliata a una ragazza. Ricercato. Jack lo sventratore. Ricompensa di 1.000 sterline. Seconda guardia, con una certa apprensione, mormora. Tutto in nero. È un mormone. Anarchico. L'usciere, ad alta voce. Atteso che Leopold Bloom, senza fissa dimora, è un notorio dinamitardo, falsario, bigamo, ruffiano e becco, è un pericolo pubblico per i cittadini di Dublino, e atteso che in questa sessione delle assise l'onorevole, suo onore, Sir Frederick Falkiner, presidente delle sessioni trimestrali di Dublino, con manto tribunalizio di pietra grigia, si alza dal banco con la barba di pietra, porta in braccio uno scettro a ombrello. Sulla fronte si ergono rigide le mosaiche corna di caprone. Il presidente. Porrò ben io fine a questa tratta delle bianche e libererò Dublino da questa peste bubbonica. È uno scandalo! Si mette il tocco nero. Che lo si prelevi, signor sottosceriffo, dal banco dove ora si trova e lo si detenga sotto sorveglianza nella prigione di Mountjoy fino a quando piacerà a Sua Maestà. E ivi lo si impicchi per il collo fino a morte avvenuta, e l'ordine sia eseguito sotto la vostra responsabilità, altrimenti abbia Dio misericordia dell'anima vostra. Portatelo via. Una calotta nera gli cala sulla testa. Appare il sottosceriffo Long John Fanning, fumando un aromatico sigaro Henry Clay.